avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Questa mattina vi darò una preoccupazione prima del tempo, cioè vi farò soffrire e pensare in maniera funesta qualcosa che in realtà è anticipato di circa un mese e mezzo rispetto al momento cruciale in cui avrete il terrore di lasciare casa vostra disabitata. Sì, perché quando prima o poi qualcuno di voi se ne andrà in vacanza, una delle angosce più profonde è dire: ma lascio casa, cosa succederà? E poi iniziano gli stratagemmi della nonna: lascio le luci accese, lascio la radio accesa, metto in modo che il vicino vada ogni tanto a dargli un'occhiata. Penso che serva poco tutto questo. I furti negli appartamenti pare che sia un problema piuttosto consistente, che ormai abbiamo metabolizzato, non ci facciamo più caso. Ho preso a caso questa mattina in internet un po' di informazioni di cui non ho poi una certezza così totale. Comunque pare che ogni due minuti in Italia avvenga un furto in abitazione, 70 abitazioni su 1000 ogni anno vengono visitate. Immagino che si tratti di tutte le visite possibili e immaginabili, dallo scardinamento totale con motosega del portone di casa a una lieve incursione, un piccolo scassinamento, alla rottura di una serranda, qualcosa che, di cui nemmeno vi accorgete appena, che è un tentativo di effrazione. È uno dei fenomeni delinquenziali più invasivi e più percepibili e raccontabili. Più o meno tutti hanno avuto dei tentativi di furto in casa, tutti almeno una volta nella vita hanno trovato una porta che è stata forzata, se non hanno trovato un appartamento orrendamente devastato, e questa è una delle esperienze peggiori. C'è un senso profondo di violazione della propria intimità. Vedere che altre persone hanno messo le mani nelle vostre cose è financo peggio della valutazione poi di quelli che sono stati i reali danni. Poi nella casa media di un italiano, cosa volete ci sia da portare via? Portano via di tutto oggi. Abbiamo dei sofisticati apparecchi elettronici che possono fare gola, ma poi alla fine non è quello tanto il problema quanto probabilmente un furto a scopo di rapina mentre voi siete in casa, e lì entra poi un altro tipo di problema. Entrando in casa quando ci sono, cosa faranno? Mi minacceranno, mi tortureranno, stupiranno tutte le donne possibili e immaginabili, anche gli uomini, faranno degli atti di violenza, ci ricatteranno. Insomma, gli episodi di cronaca a sopportare questa paura ci sono e sono concreti. Voi cosa fate per avere sicurezza dentro casa vostra? Avete realmente la coscienza posta che avete fatto di tutto? Abitiate voi in un appartamento in città in cui è sufficiente, se non si sta ai piani terra, mettere una bella porta blindata? Siate voi in una casa, in una villetta in campagna o in periferia in cui i punti d'entrata sono molteplici? Insomma, avete mai pensato che qualcuno potrebbe entrarvi in casa, sia che voi siate in casa, sia che voi siate pacificamente, felicemente in altro luogo, rientrate e trovate la terribile sorpresa? 800 24 00 24, come rendere sicura casa propria nei limiti del possibile, naturalmente. Certo che è meglio prevenire, no, che curare, tant'è vero che io a questa casa mia non solo ci ho messo gli allarmi, ho cambiato anche la porta, ho cambiato la porta blindata, ho messo una corazzata, bella porta, di una ditta russa, Potionchi si chiama, l'ho presa su internet, che ha una lamiera 10 decimi davanti e 20 decimi di dietro, perché di dietro è meglio un po' più, è proprio un detto russo, è meglio un po' di più corazzare, perché non si sa mai con i tempi che corrono. E io l'ho messa, ho cambiato anche i perni dove infilare, perché io c'avevo una casa a cartongesso, non si attaccava, allora ho dovuto mettere dei speroni, si agganciavano ai tralicci della corrente lì vicino, ho fatto un bel lavoro e adesso sono in piena sicurezza. Chiaramente, anche ci stavo, ho cambiato anche la serratura, perché io c'avevo una serratura cisa, quella a quattro mandate, e ogni mandata il chiavistello avanzava di 20 centimetri, alla quarta mandata il chiavistello mandava a chiudere anche la porta del mio vicino. l'architetto, il quale dice: ma che fa, mi chiude pure a me, adesso devo uscire. Allora ho chiamato subito Fabbro Ferraio e ho fatto levare subito quella serratura e l'ho sostituita con una serratura antiscasso sopra, un antitrapano sotto e al centro una serratura a riconoscimento digitale. Pensa, riconosce le impronte digitali perché c'è un microchip all'interno che dialoga con un microchip all'esterno. E in questo dialogo Enrico Brignano, che è un perfetto interprete di tutte le nostre nevrosi, dei minimali punti convergenza delle nostre paure, delle nostre ansie, dei nostri ricordi infantili, descrive la attività della blindatura di casa propria. Molte volte è vero, incorriamo in dei grossi madornali errori, blindiamo, mettiamo un portone che sembra il coperchio di una cassaforte, di un cavò di una banca, poi in realtà abbiamo delle pareti che basta un calcio a buttarle giù. Però probabilmente se questo ci dà compattezza, ci dà sicurezza, ci fa stare tranquilli quando siamo dentro le mura di casa nostra con la porta blindata antisfondamento e antiatomica, e magari sentiamo il vicino che russa nell'appartamento accanto, basterebbe dare una spallata al fondello e c'entra dentro casa. 800 24 00 24. Cosa avete fatto? Cosa vorreste fare? Cosa temete che accada perché casa vostra sia sicura al 100%? A proposito dei furti in casa, allarmi, non allarmi, alla fine ogni ladro sa aprire ogni casa, ogni macchina. Intanto l'allarme non serve mai per fermare il ladro. È solo una questione di tempo. Più sofisticato è l'impianto e maggiore è il tempo che ci impiega per disattivarlo. L'unica cosa fattibile, secondo me, è liberalizzare un po' la possibilità alle persone nel giorno d'oggi di potersi difendere nel caso in cui si accorgano di essere oggetto di attenzioni non gradite. Queste sono delle telefonate di ascoltatori che ci pongono i loro problemi. Noi abbiamo più volte trattato questo argomento, ma lo facciamo adesso perché c'è circa un mese e mezzo la partenza delle vacanze, quindi fate ancora in tempo a provvedere, a darvi da fare. Se questa mattina vi accendessimo qualche lampadina, qualche timore, aumentassimo il vostro timore che qualcuno possa entrare dentro casa vostra, farla a fine luglio o a fine giugno ha poco senso, perché sapete, poi le aziende chiudono, i preventivi richiedono tempo, l'installazione richiede tempo, comunque, quindi adesso è il momento giusto se volete pensarci. Alfredo, buongiorno. Buongiorno. Che le hanno fatto? Ah, mi hanno rubato la memoria per un giorno, nel senso che una notte sono entrati di domenica sera i ladri in casa mia, hanno rubato solo due mazzi di chiavi della macchina. Lì non hanno rubato la macchina perché non hanno trovato il telecomando, ma questo l'ho scoperto due giorni dopo, in quanto il lunedì mattina non trovavo i due chiavi della macchina. Le lascio immaginare che cosa ho fatto da domenica sera alle 11 fino a stamattina. Ha dormito in macchina? Ha dormito in macchina? No, io no, cioè l'angoscia di non ricordare che cosa avessi fatto dall'ora in cui ero rientrato a casa fino a quando mi ero svegliato, visto che non trovavo più le chiavi della macchina. Cioè sono entrati in casa e hanno preso soltanto le chiavi della macchina? Esatto, solo i due mazzi di chiavi. Sono riuscito a capire che erano entrati i ladri in casa solamente due giorni dopo, quando attraverso una telecamera in un certo punto si è capito da quale finestra erano entrati forzandola senza lasciare segni apparenti. Ma non c'era nient'altro a casa sua di appetibile e di rubabile, o era mirato secondo lei il furto? No, era mirato all'auto, perché era un'auto inglese un po' particolare. Quindi sapevano che lei aveva questa auto e sapevano dove stanno le macchine. Perfettamente, le chiavi. Hanno preso quindi le chiavi. Sono stati amici suoi? No, non credo. Beh, amici, personale di servizio, qualcuno che... No, perché nella stessa notte sono state rubate anche altre auto e così poi dopo ho scoperto che anche io ero nel giro delle auto da rubare. Comunque è andata bene? È andata bene, ma solo quando ho scoperto che sono... Ecco, adesso lei, visto che i ladri sono entrati in casa in maniera talmente furtiva nella notte, senza colpo ferire, cosa ha fatto a casa sua? Cosa ha cambiato? Niente. Assolutamente niente. Quindi potrebbe tornare da un momento all'altro, lei accorgersene dopo una settimana? Potrebbe. Sono stati abilissimi, hanno smontato una finestra dal di fuori e poi dopo l'hanno anche riappoggiata, io non me ne ero accorto. un bocca al lupo, cosa devo dire, Alfredo? È stata una bella avventura, è finita bene, potrebbe ripetersi in ogni momento, dal momento che Sandro non ha fatto nulla, l'ha detto anche alla radio, quindi può essere una di queste notti, le consiglio di dormire preoccupato, come si diceva ai tempi della Naia. Cristiano. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione che seguo sempre con molto interesse. Cosa ha fatto a casa sua per stare tranquillo? Ecco, io a casa sua, a casa mia non ho fatto casa nulla. Casa mia, ben venga, sto provvedendo, diciamo. Non ho mai fatto nulla di particolare, non abbiamo grandi antifurti, non stiamo nella sicurezza, voglio dire, non abbiamo investito a questo punto. Forse non avete nemmeno nulla da fregare, state tranquilli alla fine. Sì, il punto è un altro. Nonostante io avessi avuto allora, per quello che mi è successo circa una decina d'anni fa, quando ero bambino e stavo con la mia nonna in casa, nonostante io avessi avuto tutti gli antifurti possibili e immaginabili, mi è successo di essere derubato con persone che sono entrate in casa sostenendo di essere assistenti sociali, di venire incontro a me. Quello lì lei può stare anche blindato con dei raggi laser, se poi certo. La nonna apre è come Cappuccetto Rosso e il lupo entra. Questo voglio dire, io penso che la tesi sicurezza all'interno delle case con la tecnologia più avanzata possibile, io penso che... No, serve se lei non apre agli sconosciuti. Se sua nonna apre al primo che dice sono un impiegato delle poste e poi la ipnotizza, la narcotizza, la lega, la brutalizza e porta via tutto, se la prenda con sua nonna, non so che dirle, o con la bisnonna che non ha insegnato alla nonna che non si apre agli sconosciuti. Lo so, però ci sono tante persone che comunque si fidano, ma non perché... Ma quello è un altro argomento. Diamo per scontato che noi siamo malfidati nei confronti del prossimo, perché se cominciamo a parlare di circonvenzione di incapace, veramente, ma nemmeno se mettiamo il fossato con i coccodrilli dentro riusciamo a salvarci casa. Mauro Bortolotti, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Mauro Bortolotti è un esperto in porte blindate, perché è responsabile della ditta Pan Porte Blindate della provincia di Bergamo, che è un'azienda che dall'83 produce porte, serramenti e persiane blindate. Posso fare una piccola premessa? Lo dico subito. Accade spesso che noi chiamiamo degli esperti di qualunque materia, sia partendo dalle casse da morto, è successo, fino alle assicurazioni. Poi qualcuno chiama, manda grandi esposti, grandi lettere a tutti gli organismi possibili dicendo ma avete fatto pubblicità occulta questo, perché non avete chiamato noi che facciamo la stessa cosa? Ora, noi non mi farò fare la porta blindata a casa dal signor Bortolotti, né ho ricevuto denaro, né prebende, né intimidazioni in cambio di averlo chiamato. Facciamo una ricerca in internet. Diamo un'occhiata, vediamo quelli che secondo noi hanno più esperienza, hanno un volume di esperienza sufficiente, li chiamiamo. Ne abbiamo trovato oggi uno a Bergamo perché ci piaceva come esponeva il suo lavoro, ci abbiamo parlato, abbiamo sentito qualcuno, ma non è che per questo escludiamo gli altri, questo è il migliore del mondo. Lo dico perché spesso accade, ogni volta che chiamiamo qualche esperto che poi ha anche una sua attività commerciale, immediatamente tutta la concorrenza si indigna, mi hanno scritto addirittura lei ci guadagna a chiamare, quando parlai di attrezzature funebri e cose del genere. Ecco, scusi la premessa. Signor Bortolotti, l'abbiamo chiamata perché pensiamo che lei abbia l'esperienza sufficiente per rispondere. Vediamo rispetto a quello che abbiamo già detto dall'inizio della trasmissione. Lei cosa consiglierebbe mediamente di fare, naturalmente senza esagerare, a casa propria per avere un margine di sicurezza che perlomeno la prima fascia di ladruncoli arretri di fronte all'evidenza di un sistema di sicurezza? Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Cosa posso dire? Tendenzialmente per scoraggiare un ladro, per scoraggiare comunque una persona che cerca di fare un furto in appartamento, mediamente basta una porta blindata. Perché... Ecco, per blindata però cosa si intende? Ci sono vari livelli di blindatura, lo so perché ci sono passato. Allora, per blindata si intende sostanzialmente la formula classica di descrizione, è un infisso che ha delle caratteristiche tecniche di sicurezza ben precise, ossia una struttura in acciaio, telaio e ante in acciaio, e soprattutto una serratura di sicurezza, una serratura che debba essere di sicurezza. Quindi non protetta. Basta mettere quelle serrature che si vede da dietro, che ci sono no, i ferri, assolutamente va fatta no. Tutta, diciamo la verità. Sì, sostanzialmente quelle sono le serrature che noi poi andiamo a sostituire per poi mettere una porta dopo un furto o uno scasso. Sì, perché la tipica situazione in cui dicono ma avevo una porta blindata. Porta blindata è il portone, diciamo, che te lo prendono, te lo portano via e te lo riportano che c'è una lastra di ferro dietro, ecco, una cosa del genere. Assolutamente no, quello sarà una porta corazzata, ma non è una porta blindata. Ah, corazzata. corazzata. La differenza è, diciamo, che è sottile, però se la sostanzialmente tu puoi mettere qualsiasi tipologia di serratura, dalla doppio cilindro di sicurezza o anche un, come è stato detto poco prima, con un'impronta digitale biometrica, che esistono, non è che sono solo fantasie. Però se non c'è energia elettrica non si entra a casa. No, e invece no, c'è un pacco batterie che può alimentare. Sì, sì, siamo arrivati a certi livelli di sicurezza che quasi spaventano. Tu puoi mettere qualsiasi tipologia di serratura, di sicurezza o qualsiasi cosa, ma se lo metti su una struttura che è di legno, su una struttura che è debole, non cederà la serratura ma cederà tutto il resto della porta. Purtroppo l'esperienza che abbiamo avuto ci dà questo risultato. È vero quello che dicono le statistiche, che il primo luogo d'entrata dei ladri è proprio la porta? Sì, perché è anche la cosa più il posto più semplice per poi fuggire. Perché se io vedo una persona che entra da una finestra e vedo che esce dalla stessa finestra, sicuramente mi incute timore, mi dice caspita, c'è qualcosa che non sta succedendo, non va per il verso giusto. Invece se vedo che entra ed esce dalla porta, la cosa mi rassicura. Allora, le dico una cosa, una volta mi capitò in una casa, non la prima casa, una casa in montagna, di lasciare le chiavi di casa dentro casa e non potevo entrare. Un vicino di casa con una semplice pellicola fotografica mi ha aperto in 30 secondi casa. Non so cosa facesse di mestiere, non voglio saperlo. Ecco, la stessa cosa l'ho vista fare a dei vigili del fuoco una volta che è rimasta chiusa una vecchia che aveva un po' alzato il gomito in un'altra casa. Quindi ci sono dei sistemi che sembra che in un attimo una porta che sembra impenetrabile viene aperta con sistemi semplicissimi. Come mai accade questo? Perché purtroppo si studia qual è il difetto della porta, si studia qual è il difetto della serratura. Se è chiusa, quindi vengono movimentati i catenacci, quindi viene chiusa, blindata la porta, non c'è questa possibilità. Quindi anche se si esce a prendere il giornale conviene chiuderla se uno ha la porta blindata. Assolutamente, assolutamente. Se no è facile aprirla. Sì, perché sostanzialmente basta far leva su uno scrocco, quindi un affarino che esce dalla porta, e questo fa sì che tu puoi entrare tranquillamente. La famosa lastra fotografica. Lastra fotografica, logico. Nell'evoluzione delle porte blindate questi difetti sono stati modificati, sono stati anche tolti, non è che è così facile entrare da una porta. Senta, io mi ero fatto a casa l'ultimo modello di serratura con chiave europea, mi sembra si chiami così. Ero convinto e tranquillo, poi ho visto nel mio venditore di fiducia di blindature, che avrà capito che per me è una leggera mania, un cartello con una rappresentazione terrificante di una sorta di tubo con un altro pezzo di tubo, dice attenzione, dovete prendervi la serratura antitubo. Ho capito che la mia serratura era perfettibile e quindi era vulnerabile al tubo, ho dovuto mettere la serratura antitubo. Anche dalle vostre parti gira la banda del tubo, e di cosa si tratta? Purtroppo sì, anche dalle nostre parti, di sicuro nei grossi centri, nel senso noi operiamo tantissimo in Milano sostanzialmente, c'è questo allarme, zone Bergamo e periferia è già ancora un pochino più salva, diciamo, la situazione, però effettivamente c'è, perché oltre a mettere una serratura doppio cilindro, il cilindro deve essere codificato, profilo europeo, come adesso. Ma col tubo pare che apre, che lo scardino, sì, proprio. Sì, non, praticamente vanno a fare una leva sul il Defender, che è un accrocchio in metallo, un affare in metallo che va a proteggere il cilindro e che lo rende inattaccabile. Logicamente di Defender ce ne sono in giro tanti. Guarda, io le dico, ho visto delle vetrine di suoi colleghi che sembra una sezione del Museo di Criminologia del Lombroso. Mettono tutti i tubi per spaventare, e sono dei tubi di ferro saldati con un tubo un po' più grosso che penso che si infili dentro il portachiave della serratura, uso termini obrobrosi, e basta fare un po' di leva, si scardina tutto e viene via tutto, qualcosa del genere. Sì, sostanzialmente purtroppo questa è un po' è una brutta cosa fare, è un po' una violenza nei confronti delle persone. Ovviamente bisogna dire che vedere una persona che gira con un tubo in mano per cercare di aprire una porta non è una cosa... Uno lo infila dentro i pantaloni, fa un po' il vago. No, perché servirebbe ovviamente una leva molto più lunga, sì. Servirebbe magari un metro e mezzo. Ho visto, un metro e mezzo. dalla cintura alla caviglia ci passa un metro e mezzo, uno sta lì, fa finta di essere Claudio pesante e c'ha il tubo dentro, o con problemi devastanti, però c'ha il tubo dentro e poi pare che sia un attimo. No, diciamo che bisogna applicare parecchia forza e poi comunque non è così definito il fatto che è matematico che si altra cosa, poi porta. Si fa un casino bestiale, sì, nel senso, fa rumore. Assolutamente, è logico, se vado in giro armato con un flessibile a batteria, allora anche un cavo di una banca può essere aperto. Allora adesso mi spiegherà fra un istante, dopo le informazioni della borsa, cos'è il flessibile, perché sto entrando in un campo secondo me affascinante. 800 24 00 24, avete una grande occasione questa mattina, voi paranoici dello scasso, voi terrificati del furto, voi immaginifici romanzieri del ladro che entra a casa vostra, per dare sfogo a tutte le vostre paure, perché abbiamo chi risponde ad ogni domanda. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Chi è? I ladri. No, su, l'allarme è staccato. Ammazza, è bella casa che è questa. Oh, qui stiamo proprio a soffio zero, questa roba pazza, fumo nell'occhi, sti pariolini del cavolo. A trippa. Qui abbiamo preso una doppata. Stipide una mignotta, se portano tutti in Svizzera, se portano. Ma come si fa a lavorare? Dovevamo andare in Svizzera pure noi. Ma io mi domando e dico, che ce lo metteranno a fare l'allarme? Me fa una lascia! Questo è Bombolo e Company nella loro squadra antifurto. Il Bombolo è il ladro, entra a casa, bussa, chi è? Aprite, siamo i ladri. È naturalmente la versione satirica di quello che invece accade. Leggo soprattutto su Facebook storie terrificanti. Un'ascoltatrice dice c'è una banda di ladri che entrava a nottetempo, ma io penso che siano sue fantasie, entra a nottetempo nelle case, scassinava e poi lasciava innominabili oggetti falliformi, quasi a sfregio della padrona di casa. Ma non so se fosse un attacco mirato, se poi fossero veramente ladri, però questo mi è stato scritto e questo riferisco. C'è un ascoltatore su Facebook che è figlio di un installatore di sistemi antifurto, dice casa mia è un vero e proprio bunker. Sentiamo Lisa. Lisa, buongiorno. Buongiorno, lei oggi ha riaperto una ferita ancora recente. È ancora dolorosa. Dalle vacanze ho trovato la casa svaligiata. Non avevo fatto niente, eravamo proprio così semplicissimi, non, né antifurti né niente. E dopo questo fatto abbiamo messo l'antifurto, le inferriate, insomma viviamo diversamente da prima. Le volevo chiedere, ma questa trasmissione lei l'ha fatta perché ci sono più furti adesso in Italia? Primo. No, l'ho fatta perché persone come lei così si allarmano e non dormono tranquille, solo per questo. E poi le volevo chiedere un'altra cosa. Allora, a casa mia non hanno rubato né argento. Allora, ci sono voci che dicono che gli zingari non rubano l'argento perché sono spesso coralli. Sì. Io ho dei bei coralli come gioielli, sì, loro li hanno lasciati. Io lascerei una valigia di lingotti d'argento e metterei degli zingarelli dentro casa, poi gli odier se la lasciano lì. Io penso che questo fa più piacere a noi pensare che esistano dei tabù di tipo superstizioso o religioso. Secondo me quando entrano fregano di tutto, non portano via le cose che non valgono nulla. La cornicetta che regalano per la prima comunione è soltanto placcata, vale 2 lire e si rischia più a portarla via che a prenderla, ma se fosse qualcosa di sostanzioso secondo me se lo prenderebbero senz'altro. Non lo prendono perché non vale nulla l'argento che probabilmente abbiamo dentro casa, è a bassissimo titolo. È argentaccio, robaccia che regalano così i parenti che vogliono far bella figura. Io non mi starei a fermare, non trasformerei tutti i propri averi in argento per star sicuri che gli zingari non li portano via. Grazie Lisa. Alberto. Sì, buongiorno, mi chiamo Alberto, sono un installatore di sistemi di sicurezza, parlo più antifurti e telecamere. Sì. Buongiorno. E niente, la mia esperienza è questa, nel senso che io di solito vengo chiamato a fare un eventuale preventivo, a fare un lavoro. Quando è già accaduto il fattaccio. Quando è già accaduto il fattaccio, di conseguenza mi trovo sempre davanti delle persone che hanno subito una violenza immane, che possiamo proprio parlare di uno stupro. No, no, ma con rispetto per chi subisce veri stupri, è qualcosa che colpisce profondamente, vedere che degli estranei entrano a casa propria. Poi ci sono tipi di ladri che se non trovano quello che cercano lasciano anche segnali di lordatura dell'abitazione, quindi è brutto, senz'altro. Assolutamente sì, e la mia percezione è questa, nel senso che noi è da tanto che facciamo questo mestiere, la sensazione è che questi fenomeni siano in aumento, ma la cosa più preoccupante rispetto al passato è che una volta in passato veniva presa di mira l'abitazione e gli averi dell'abitazione e basta, adesso invece sono più in aumento i furti con la famiglia presente, perché ormai una casa vuota e una casa che a parte il televisore, a parte lo stereo, a parte l'eventuale quadro, non si può raccimolare nient'altro, mentre una casa abitata, una casa, un furto che avviene di notte mentre la famiglia sta dormendo, è una casa in cui c'è più probabilità di trovare gioielli, portafoglio con denaro contante dentro, e quindi ultimamente la mia sensazione è che le persone dedite a questa attività prendano più di mira le case abitate piuttosto che quelle disabitate. Beh, questo è preoccupante. Certo, perché almeno diciamo soldi liquidi ci stanno, perché il portafoglio se lo tengono addosso, poi molte case hanno la cassaforte, è più facile costringere la persona a aprirla piuttosto che scervellarsi di come aprirla, anche questo è vero. Esattamente, quello che consiglio io è, oltre alla porta blindata, e uno può pensare di mettere un antifurto a casa propria, non perché così risolva tutti i suoi problemi, ma perché l'antifurto perfetto non esiste, non esiste una cosa sul mercato che ci dà il 100% della sicurezza, però sicuramente ci aiuta a vivere meglio e a vivere con una serenità maggiore. Beh, oddio, se uno assolda un plotone di ninja e li tiene dentro casa 24 ore su 24, chi entra viene fatto a fette, ma è un estremo, per dire. Esattamente, è inutile trasformare casa propria in Fornox, perché poi uno diventa schiavo della propria abitazione e dei propri averi. Sì, diciamo che c'è un minimo che fa stare la coscienza abbastanza a posto, perlomeno se è fatta la parte giusta, e adesso conteremo col nostro ospite. Sentiamo Giuseppe prima. Giuseppe, ciao Gianluca, pronto? Sì. Gianluca, mi senti? Sì, sentiamo questa furbata. Allora no, non è una furbata, noi semplicemente lasciamo aperta la casa, non abbiamo le chiavi. Abbiamo una casa normalissima, il frigo pieno, la bottiglia di vino là, e se qualcuno, se la sorte ci prende in caso, paghiamo il nostro scotto, ma in compenso andiamo in giro sempre senza chiavi, evitiamo che qualcuno, per derubarci di qualcosa, ci scassi la casa. No, viviamo tranquilli lo stesso. Lei dice: non ho nulla di appetibile particolarmente in casa, ma guardi che rubano anche le lenzuola, le coperte. Una casa normalissima, con tutto, anche magari con qualche mobile vecchio. Abitiamo in collina, abbiamo una parete della casa la più lunga completamente a vetri, no? E quindi ci farebbero un danno enorme nell'entrare, ma poi... Vabbè, giustamente dice, meglio che entro dalla porta che mi rompano la vetrata, certo. Ma ci sono le finestre aperte perché c'è il gatto che va e viene, per cui... Vabbè, lei dice, sì, questa è una soluzione minimale, chiaro, non può valere per tutti... E non tutti, chi svolge le professioni che richiedono delle apparecchiature, basta avere a casa 2 o 3 computer di buona qualità, già c'è un motivo sufficiente per venirseli a prendere, quindi non si può sempre giocare su questo minimalismo. Torniamo con Mario Bortolotti, che è responsabile della Pan Porte Blindate di Bergamo e quindi la sa lunga. Vogliamo dare una formula di minimo indispensabile per avere un margine di sicurezza? Certo, il nostro ascoltatore dice io lascio tutto aperto, ma non può valere per tutti. Un margine di sicurezza e dire almeno ho fatto quello che posso aver fatto senza svenarsi. Allora, sicuramente il margine di sicurezza più adeguato è montare una porta blindata, avere un buon sistema d'allarme e cercare di utilizzare dei prodotti di un certo livello, non utilizzare prodotti che costano 4 soldi e non valgono assolutamente nulla. Diciamo che una spesa attorno ai 1000 euro andrebbe fatta sulla porta. Sì, minimo. Ci garantisce di avere una porta almeno con, nel nostro caso, con una doppia serratura cilindro europeo, con determinate caratteristiche di sicurezza che possono almeno, come posso dire, rendono sì che l'eventuale ladro possa avere difficoltà o non riuscire addirittura ad entrare. Ecco, se uno invece volesse il top per un'abitazione, parlo, non per un'attività commerciale, quanto dovrebbe spendere? Tendenzialmente, allora, le porte vengono classificate con dei numerini di sicurezza, dei gradi di sicurezza. Si parte dal numero 0, che non ha nessuna certificazione, fino ad arrivare a un grado 5, in cui praticamente si certifica la porta che nemmeno che possa essere adeguata per una gioielleria, piuttosto che una nemmeno banca. Con il bazooka, ecco. Nemmeno col bazooka riesco ad entrare. Ecco, una 5 quanto viene? La 5 potrebbe, a parte che sono dei livelli che sono irraggiungibili perché si rientra su determinate caratteristiche che sono porte quasi irraggiungibili, superiamo sicuramente i 2.000 euro, il doppio. Beh, però alla fine fra 1.000 e 2.000 euro diciamo che non sono spese che mettono in crisi una famiglia, se vale la pena, non mi pare che, mi sembra un adeguato sistema per avere un margine di sicurezza. Poi si partirà le finestre, poi ci sarà tutta una serie di la fame viene mangiando, uno poi vorrebbe tutto, vorrebbe anche il tracciato con i raggi infrarossi che se uno li tocca, come nei film dei grandi furti, nei grandi musei, scatta un sistema d'allarme. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. L'allarme che installeremo è un kit senza fili che può essere interamente gestito attraverso il telefono cellulare e che invia tutte le notifiche tramite SMS. Prenderemo inoltre una sirena esterna in aggiunta rispetto alla sirena già contenuta nella centrale e una tastiera di controllo Visual Key. Andiamo a installarlo. All'interno della confezione troviamo una centrale con combinatore telefonico integrato, uno snodo orientabile, un sensore di apertura, un rilevatore di movimento, un telecomando. Naturalmente l'ipocondria dei coloro che temono come fosse una malattia l'intrusione a casa propria porta a un mercato vastissimo. Internet è piena di sistemi di allarme, vengono venduti di tutti i tipi, di tutti i prezzi. Io mi sono fatto un giretto al mercatino rionale qua sotto la radio e ho visto delle fantastiche bancarelle di cinesi che vendono dei sistemi con telecamera, anche quelli finti che costano pochi euro, ma con 50-60 euro vendono delle telecamerine che sono ispezionabili, cioè sono collegate al proprio cellulare e sembra si possa vedere tutto. Ma è sufficiente spendere cifre così basse per dei sistemi di allarme o bisogna entrare in un altro volume di spesa? L'ospite che ci può rispondere su questo è Eddo Quaggia, che è coordinatore della sezione professionale installatori di sistemi di sicurezza dell'ANCIS, che è l'associazione italiana sicurezza e automazione edifici. Signor Eddo Quaggia, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, le ho detto che mi sono fatto un giretto nelle bancarelle, ho visto un po' in internet. Pare che con 50-60 euro uno prenda un sistema di allarme, lo trova plausibile? Assolutamente, perché io ho seguito un po' tutta la trasmissione che si è evoluta con voi e purtroppo devo dire che si è lasciato in sospeso una cosa molto importante, che forse non tutti sanno: gli impianti di allarme, gli impianti di sicurezza, le apparecchiature sono soggette a una legge in Italia, che è, diciamo così, la DPR 37, che significa l'installazione dei sistemi elettronici e quindi gli impianti di allarme secondo le normative vigenti. E uno non può fare il fai da te del sistema d'allarme. Cioè, la legge non lo permetterebbe in questi casi qua. Tutti gli impianti elettronici, va bene, devono essere soggetti a una dichiarazione di conformità. Beh, anche la rete elettrica di casa, si viene un elettricista, è chiaro. Perché sono affinati alla rete elettrica di casa, è un impianto elettronico in poche parole. Ci vuole un elettricista certificato. Ma, diciamo che a fin fine l'elettricista, che purtroppo va bene in Italia, c'è la brutta mania di farsi fare i lavori non solo dall'elettricista, ma non andare da dei professionisti, e tantomeno va bene da chi è in grado di gestire questa situazione, fa montare gli impianti a tutti i perduti, fa poco l'idraulico, il non si dice chiunque, va bene, ma sicuramente va bene, basta. Lo so, c'è un operaietto tanto bravo, non ti fa pagare l'IVA, ti fa lo sconto. Ecco, lei ha toccato un discorso molto importante. Fa tutto al nero, però ti conviene perché il materiale li porta lui. E la certificazione, diciamo, la certificazione dice che l'hai persa. Ma chi le dà la garanzia? Sì, nessuno, infatti non puoi piangere lacrime amare. Esatto, quindi tutti gli impianti, va bene, devono essere dotati di una dichiarazione di conformità. Ecco, lei cosa consiglierebbe mediamente? Per una fascia intermedia di persone che compra, mette la porta blindata, poi vuole essere un pochino più tranquillo. Io ho visto addirittura le cortine fumogene, se entra un lato parte una cortina fumogena. Quindi si chiamano nebbiogene. Allora, adesso in questo momento qua... Va molto di moda. Sì, va molto di moda, direi anche questo, che sono anche utili in determinati casi. Però sembra di stare in discoteca, nelle discoteche degli anni Ottanta, è bellissimo. È bellissima, te può prendere anche di colorazione diversa, o lo può prendere anche, va bene, con... il peperoncino addirittura. Vabbè, quindi... sembra più un gadget per orge che un sistema di sicurezza. Ma diciamo che in determinati ambienti può essere anche sicuro anche un sistema. Ecco, lei cosa consiglierebbe da buon professionista? Da buon professionista, prima di tutto, quello che consiglio io è che gli impianti di allarme non sono la panacea di tutti i mali in questo momento qua. Cioè, l'equilibrio giusto sta nella protezione di sicurezza passiva e sicurezza attiva. Sicurezza passiva, diciamo, quello che possono essere la ostentazione per poter, diciamo, impedire che qualcuno entra dentro. Quindi sicuramente la porta blindata. È quello che ha detto il suo collega prima delle porte blindate. E dopo la sicurezza elettronica, la sicurezza attiva. Però anche la sicurezza attiva deve essere fatta direttamente da chi fa sicurezza. Ma detto questo, cosa consiglio? Nell'ordine, il sistema che fa rumore suona... Quando comincia a essere luglio-agosto ne scattano nel circondario di casa mia decine, e uno non mi sarei mai sognato di andare a vedere se poi ci sono i ladri. Certo. Beh, io quello che consiglio è un sistema che sia un sistema abbastanza semplice da utilizzare, ma nello stesso momento non la sofisticazione eccezionale, ma l'utilizzo di apparecchiatura, diciamo, di un certo livello. Ma cosa dovrebbe fare? Avvertire la centrale di polizia? Avere in dotazione un sistema di comunicazione telefonica, va bene, che forse tutti non sanno, il collegamento con i carabinieri e le forze dell'ordine in Italia è gratuito. Cioè, lei può collegarsi al 112, va bene, i carabinieri, facendo una richiesta direttamente ai carabinieri e portando la dichiarazione di conformità che il suo impianto è fatto alla regola dell'arte, e lei può collegarsi con i carabinieri. Quindi ogni volta che il sistema entra in azione lanciano un messaggio. Lancia un messaggio, chiama direttamente, va bene, le forze dell'ordine, e questi, va bene, dovrebbero intervenire. Anche perché se avverte me, che faccio? Prendo il randello e vado a casa con la mazza da spaccapietri, no, cioè no, nulla. O se no, collegarsi direttamente, va bene, con un centro operativo. Perché abbiamo sì i carabinieri, però anche i carabinieri, poveri cristi, va bene, non è che siano sempre là a disposizione quando le chiami. Quindi ci sono dei service che danno anche la garanzia che poi c'è chi interviene al posto nostro. Certamente. La telecamera che ce la fa vedere sul telefonino a cosa serve? Perché serve più per vedere se sono alle corna, perché se anche vedo il ladro io sto a 200 km, che faccio? Telefono e dico... Si mangia le unghie per non essere là. Non serve a nulla. Beh, bisogna anche stare attenti anche a queste cose qua. Io adesso, come diceva lei prima, quando va giù dai cinesi vendono di più e di tutto, bisogna stare attenti anche alle telecamere, perché c'è una legge sulla privacy che impedisce anche l'utilizzo di telecamere in determinate situazioni. Quindi mi sembra Eddo Quaggia, che il suo consiglio è chiaro: il sistema di difesa attiva nei confronti dei ladri più consigliabile è un collegamento con una centrale specializzata o di polizia o di carabinieri, che almeno ci garantisce che la chiamata verso le forze dell'ordine viene fatta. Il resto serve solo ad appagare nostri desideri di controllo totale su casa nostra, probabilmente anche su chi c'è dentro. Grazie ai nostri ospiti, grazie agli ascoltatori, a domani. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.